20 luglio. Stanotte sono venuti davvero. Non hanno soltanto ululato le sirene, ma ho sentito il ronzio degli aeroplani sopra le nostre teste, poi gli scoppi della difesa antiaerea e naturalmente non ho avuto paura. È stata la risposta a quell'interminabile discorso di Hitler concluso da quel lugubre applauso barbarico. L'Inghilterra deve sapere che finché rispetterà le cose sacre non può morire. Distruggere Roma sarebbe una profanazione. Io so che l'Inghilterra non la colpirà mai. Mi ha fatto un piacere un po' strano sentirli così vicini sopra le nostre teste. Siamo scesi in cantina con gran fracasso e molta allegria. Sono venuti giù anche i bambini dell'onorevole. Ah, la piccola è deliziosa, riccioluta, sensibile, delicata. Quanto i genitori sono sgraziati, pesanti e grossolani. L'ho accarezzata con tenerezza e senza accorgermene, quasi per vezzeggiarla più affettuosamente, le ho detto «Ciao Elisabetta!» e l'ho baciata. Nel nostro gergo di cospiratori Elisabetta vuol dire Inghilterra. La piccolina ha aperto gli occhi e mi ha sorriso per ringraziarmi, poi ha ripreso a dormire. Aveva capito che le avevo detto una parola affettuosa. L'incidente è stato molto buffo e con Annie abbiamo riso con molto gusto. Se lo sapesse Babbo Gerarca. Ma con i bambini ci si capisce sempre, soprattutto senza spiegarsi. La nottata in un ricovero durante le incursioni è quasi sempre una parentesi allegra e movimentata. Qualcuno ha paura. Si capisce benissimo o dal suo silenzio oppure dal suo chiacchierare troppo disinvolto. E sono tanto ridicole le persone che hanno paura, tanto ridicole che finiscono poi con l'essere divertenti. Ricordo molto vagamente le fughe di notte per difenderci dagli aeroplani tedeschi durante l'altra guerra. Ero piccolissima e confondo moltissimo. Per esempio, non ricordo affatto come ci dessero i segnali, ma ho la precisa sensazione della gaiezza piena di eccitazione che ci procuravano quelle improvvise corse in cantina. La guerra, siamo tutti d'accordo, è una deformità, una pazzia umana, anzi più propriamente un fallimento delle possibilità razionali degli uomini, i quali sono costretti a confessare di non essere più capaci di risolvere i problemi per mezzo delle proprie facoltà specifiche di intelligenza e d'ingegno. E si riducono ancora a chiedere aiuto a quella bestia primordiale che subdolamente dormicchia acquattata dentro di loro. Dunque, la guerra è una cosa disumana e così l'odio, d'accordo. Ma quando la guerra è in atto e gli uomini non sono stati capaci di evitarla, allora è inutile fingere di non portare odio, di essere umani. È vile. Pretendere di non combattere. Almeno questo io sento quasi per istinto naturale. Forse sarà un resto di primitività selvaggia, ma sta di fatto che la guerra scatena automaticamente anche in me, come negli uomini, gli istinti più riposti e primordiali. Io so di essere diventata da quel terribile settembre scorso più cattiva e feroce. E quello che è strano, non riesco a provare né rimorso, né vergogna, né pentimento per questo. Mi sembra che tutto ciò sia avvenuto senza l'intervento della mia volontà e che perciò io non possa far cessare volontariamente. Non sono stata io a dichiarare la guerra, né sarò io purtroppo a farla cessare. Ma non posso, non voglio cedere al vincitore ingiusto, chiunque egli sia.